Alle 10 del mattino, Stefanuzzo Barbabianca si presentò sulla porta della chiesa scalzo e con una candela accesa in mano per sciogliere l'altro voto solenne che aveva fatto. Con la testa calata sul petto, la candela alzata, arrivò fino all'altare maggiore dove sostò in doveroso raccoglimento. Poi, consegnata la candela a Padre Mornone, si stese a pancia sotto, tirò fuori due palmi di lingua e a sciascicune leccò accuratamente lo sporco del pavimento. La banda municipale, che aveva quasi esaurito tutto il suo repertorio, aveva appena attaccato "Tu che a Dio spiegaste l'ali", passando proprio sotto la finestra, quando il dottor Artidoro Carmina, voltato a Nino, disse semplicemente: "È morto". Dal momento che il Nino l'aveva preso in potere sul terrazzo, dato che quello non poteva più catamenarsi e l'aveva messo sul letto, don Angelino Villasevaglios non si era più ripreso. Solo una volta nella nottata, stringendo forte la mano del servo, aveva mormoriato a voce bassa e impastata, tanto che Nino aveva dovuto incollare l'orecchio sulla sua bocca per capirci. "Nino, arrivò il vapore". "Arrivò, arrivò", aveva mentito il servo, sentendosi calearsi la faccia al fiato pesante del moribondo. E a quelle parole la bocca di don Angelino si era allargata in una smorfia aperta, una specie di sorriso storto che andava da un'orecchia all'altra. Faceva la stessa espressione ora che era morto, e uno non lo poteva tagliare senza impressionarsi. "Che devo fare?" domandò Nino al medico, e si riferiva a quella muta risata. "Che vuoi fare? Chiudigli gli occhi", rispose il dottor Carmina, che non aveva capito. Nino, amorevolmente, con delicatezza, gli passò a calare la mano aperta dalla fronte al naso e le palpebre si chiusero. Ma la risata subito parse peggio, così squacciarata che proprio non era cosa giusta. Ma almeno lui, pensò Nino, è morto contento.